Il cigno magico. C'era una volta, in una cittadina lontana, una famiglia di tre fratelli. I loro nomi erano Jack, Leo e Peter. Il maggiore, Jack, era un fornaio. Cucinava il pane e le torte più buone al mondo. E la gente veniva da tutte le parti per comprarle. Leo era il secondo fratello ed era un insegnante. Era molto intelligente e i bambini a cui insegnava lo adoravano moltissimo. Peter era il più giovane, ma non aveva alcun talento che lo distinguesse. Era un giovane gentile e simpatico, ma spesso si sentiva molto triste quando vedeva i suoi fratelli lavorare. I suoi fratelli erano molto cattivi con lui. Lo schernivano sempre senza pietà perché erano convinti di essere più importanti di lui. Mai una volta si erano comportati in modo gentile con lui. Oh, cos'è questo? È la zuppa, fratello. L'ho fatta proprio come piace a te. Zuppa? Come puoi chiamare questa cosa acquosa zuppa? Sicuramente non mi piace. Il mio povero buon pane è sprecato in questa bevanda salata alla cipolla. Portala via, sul serio. Jack è il miglior fornaio in questo posto. Io sono un insegnante bravissimo, come ben sai. E tu, cosa sei in grado di fare esattamente? Io posso... Non sai nemmeno cucinare una zuppa decente. Sei davvero nostro fratello? Me ne vado. Peter, pulisci questo pasticcio che hai fatto. Cosa? Aspetta! Cosa pensi riguardo a... Oh, puoi mangiare tutto tu, sciocco e inutile fratello! Il povero Peter ne rimase molto ferito, ma si sedette e non disse nulla. Il giorno seguente, Peter andò nella foresta e si sedette lì in silenzio. Stava pensando alla sua vita e alla cattiveria dei suoi fratelli. Cosa devo fare? I miei fratelli sono davvero bravi in quello che fanno. Sono davvero inutile per tutti quanti? Cosa stai brontolando, sciocco giovane? Oh! Il vecchio si avvicinò a Peter e gemette mentre si sedeva lentamente accanto a lui. Di cosa ti lamenti? Sei così giovane? No, non è niente di importante. Stavo solo pensando ad alta voce. Se non era importante, allora ascolta me. Ho molte cose di cui lamentarmi. Oh, tipo cosa? Come quel fornaio, Jack. Che terribile fornaio. Il suo pane è così duro e ha un odore così cattivo. Mi sembra di sentire l'odore dei miei piedi. Non può essere il suo pane. Io ho assaggiato il pane che fa ed è delizioso quasi quanto una torta. Bene, allora ascolta ancora. C'è questo insegnante con cui ho parlato ieri. Pensavo che fosse intelligente, ma era estremamente noioso. Mi dispiace per i bambini a cui insegna. Qual era il suo nome? Leo! Leo? Ho sentito che il migliore insegnante è qui. I suoi studenti lo adorano molto. Penso che ti sbagli di grosso. Come divertente! I tuoi fratelli ti trattano così male, eppure tu non dici ancora niente di male su di loro. Sono i miei... Aspetta, come fai a sapere che sono i miei fratelli? In quel momento il vecchio brontolone si trasformò in un'adorabile fata con una voce limpida come il cristallo. Oh, chi sei? Sono la fata dei cuori buoni. Ti ho visto molte, molte volte e ho notato quanto sei gentile con quelli che ti scherniscono. Oh, così lo sapevi dall'inizio? Sì, lo sapevo. Peter, lascia che ti aiuti. Il mondo è enorme e se non sei felice qui, perché non lasci la tua casa e cerchi di trovare qualcosa per te? Ma dove dovrei andare? E cosa dovrei fare? Te lo dirò io. Una volta iniziato il tuo viaggio, vedrai un uomo dormire rumorosamente sotto un albero. Lui avrà un bellissimo cigno bianco legato al suo fianco. Dovrai slegarlo e portarlo con te. Un ottimo compagno per i miei viaggi? Non solo eccellente, ma anche magico. Quando qualcuno lo vedrà, vorrà toccare le sue adorabili e morbide piume. E quando lo farà, griderà: "Aspetta, piccolo cigno!" e rimarrà attaccato ad esso. In questo modo, molte persone rimarranno attaccate e con tutte loro dovrai andare al palazzo. Lì incontrerai il tuo destino. Perché mi stai chiedendo di fare una cosa così strana? Lo saprai quando sarà il momento. Ricorda di fare come ti ho detto. Oh, e quando avrai finito, di al cigno: "Lasciali andare, bellissimo cigno." E tutti saranno liberi. Bene, arrivederci, dolce Peter. La fata agitò la sua bacchetta magica e svanì nel nulla. Era ormai tardi e Peter si precipitò a casa a cucinare per i suoi fratelli prima che tornassero. Il giorno dopo, la mattina presto, Peter lasciò la casa assicurandosi di non svegliare i suoi fratelli. Camminò a lungo mentre il sole iniziava a sorgere. Sulla sua strada, proprio come aveva detto la fata, si imbatté in un uomo enorme che dormiva profondamente sotto un albero. E lì, legato accanto a lui, c'era il cigno più bello che Peter avesse mai visto. Ah, quest'uomo dorme profondamente. Prendere il cigno sarà facile. E così slegò la corda e portò via il cigno in modo rapido e silenzioso. Presto raggiunse un regno. Lì portò il suo cigno per le strade e guardò tutte le cose meravigliose che lo circondavano. Mentre camminava, vide un uomo che fissava il cigno. «Qui, ragazzo, quel cigno è semplicemente stupendo. Posso accarezzarlo?» «Oh, certo che puoi! Fai pure!» L'uomo toccò il cigno felicemente e iniziò ad accarezzarlo. «Aspetta, piccolo cigno!» E quasi immediatamente l'uomo si attaccò al cigno. Non riusciva a staccare la mano, non importa quanto la tirasse. «Oh, oh, cosa? Perché sono attaccato a questo cigno? Perché non riesco a tirar via la mano? Questa è magia? Ah, aiutami!» Peter sorrise all'uomo e iniziò a camminare. L'uomo continuava a gridare e la gente iniziò a fissarli. In mezzo a loro c'era uno spazzacamino. Vide l'uomo attaccato al cigno ed andò ad aiutarlo. «Aiuto, qualcuno, mi liberi!» «Ecco, afferrami, ti libererò io!» E nel momento in cui Peter lo vide, urlò a gran voce. «Aspetta, piccolo cigno!» E ora il povero spazzacamino era attaccato all'uomo arrabbiato. «Cos'è questo? Lasciami andare! Lasciami andare adesso!» «Ehi, smetti di colpirmi con quella sporca spazzola!» Insieme andarono per le strade attaccati l'uno all'altro. La gente cominciò a ridere vedendoli. Sulla strada incontrarono un pagliaccio su un monociclo. «Oh, oh, oh! Ho visto piccoli elefantini aggrapparsi alle code delle loro madri! Perché li volete imitare?» «Smettila di ridere e aiutaci a liberarci!» E non appena allungò la mano, Peter urlò ad alta voce: «Aspetta, piccolo cigno!» «Oh, hai! Oh, oh, oh! Lasciami andare o cadrò!» «Non ti sto trattenendo!» «Bugiardo, mi hai fregato! Lasciami andare adesso! No!» La gente rise nel vedere i tre attaccati fra di loro e alla coda di un cigno. Insieme si diressero verso il palazzo. «Ho quasi raggiunto il palazzo, ma non ho idea di cosa fare qui.» Proprio in quel momento una bellissima carrozza d'oro arrivò veloce vicino a loro. In essa sedeva l'amata principessa del regno, Lia. Era una ragazza molto bella, ma aveva smesso di sorridere o ridere dalla morte di sua madre. Ma vedendo la fila di persone attaccate insieme in modo così esilarante alla piccola coda di un cigno, scoppiò a ridere. «Oh, mio Dio, strana cosa che vedo. Il re venne a sapere che sua figlia aveva riso e fece chiamare coloro che l'avevano fatta ridere. E quando entrarono e vide anche lui tutto quanto, scoppiò a ridere. Questa è la cosa più divertente che abbia mai visto. Peter era piuttosto divertito da tutto ciò. Guardò di nuovo le persone arrabbiate e confuse che si erano messe in questo pasticcio e si dispiacque per loro. Immagino che dovrei liberarli ora. Lasciali andare, bellissimo cigno. E tutto d'un tratto, i tre uomini furono finalmente liberati. Erano così sollevati, ma così spaventati, che corsero fuori dal palazzo urlando a squarciagola. Quindi, sei l'uomo che ha fatto ridere mia figlia. Sono così felice di sentire la sua adorabile voce felice dopo tanti anni. Non posso ringraziarti abbastanza. È stato un piacere, grande re. Oh cielo, che bellissimo cigno! Sembra fatto di neve. Posso toccarlo? Certo che puoi. E mentre lo accarezzava, all'improvviso guardò e si rese conto di quanto fosse bello Peter. Giovane, c'è qualcosa che vuoi come ricompensa per aver fatto ridere mia figlia? Bene, Altezza, non vorrei altro che sposare la sua bellissima figlia. La sua voce, quando ride, è bella come il suono delle campane. Oh, bene, non sono molto sicuro. Padre, vorrei sposarlo. È l'unico uomo che è riuscito a farmi ridere. Quindi, il giorno successivo, la principessa Lia e Peter si sposarono con un'enorme e grandiosa cerimonia. Lia, sei la ragazza più bella che abbia mai visto. E quel tuo sorriso illumina tutto il mio mondo. Prometto di farti ridere e sorridere sempre. Oh, ti amo, Peter. E così vissero felici e contenti. E Peter si rese conto che non c'era bisogno di essere una persona importante per fare qualcosa di eccezionale. Si rese conto che essere se stesso non solo lo rendeva felice, ma rendeva contente anche le persone a lui vicine.